Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Allora Chiara, in apertura di questa puntata andiamo un po' in giro per l'Italia con Storie di Scienza. È un maggio pieno, ricco di eventi culturali legati alla scienza, e quindi vogliamo raccontarli un po' agli ascoltatori. Noi andremo a Milano, dintorni, poi Varese, poi anche Roma. Ma comunque adesso i titoli e poi cominciamo. Enrico Ghezzi, che ben conosciamo come studioso e critico cinematografico, ci parla di Nikola Tesla, lo scienziato più matto degli ultimi 150 anni. C'è stato un momento nella storia nel quale si è capito che le macchine potevano far di conto. Uno spettacolo teatrale racconta questo passaggio storico, avvenuto un secolo e mezzo fa. Siamo sicuri che non bisognasse trattare con gli ultranapoletani? Le ricerche scientifiche sui comportamenti di massa ci danno indicazioni abbastanza chiare. Nel Mediterraneo arrivano all'improvviso e non si capisce cosa ne inneschi la fioritura. Sono alghe microscopiche. Un progetto europeo vuole capire in profondità questo fenomeno e attivare delle procedure di preallarme. Ecco, il primo appuntamento che ci ha particolarmente interessato ha come tema Tesla, noi e il motore immobile. Tesla è certamente un personaggio affascinante della scienza a cavallo tra i due secoli, il XX e il XIX, però ci ha incuriosito anche ancor di più il fatto che a parlare di Tesla ci sia un personaggio che salutiamo questa sera, Enrico Ghezzi. Buonasera Ghezzi. Ciao, buonasera. Allora, senz'altro ti conosciamo come critico cinematografico, come studioso di media in generale. Oddio, per molti versi, Chiara, non è che ci sorprende che Ghezzi possa parlare. Era assolutamente un fenomeno, uno dei grandissimi personaggi della scienza e non solo. È un personaggio anche pazzo, insomma, un personaggio completamente folle. Di che cosa parlerete allora a Garbagnate domenica 11 alle ore 18? Non dei dischi dei Tesla, che furono una delle tante derivazioni e riecheggi della figura di Tesla. Io ho dato il titolo, come si danno i numeri, no, non del tutto, comunque Tesla, noi e il motore immobile, e perché credo che ci siano dentro, così in modo casuale, ci sono cadute dentro, e le posizioni possibili rispetto alla questione dell'energia, che in qualche modo è la questione del vivere nostro, sfrondata dai miti, e diventa essa stesso un mito, cioè un mito dell'origine, dove non si capisce se l'elettricità sia un'allusione, un arrivo dal futuro, o se sia invece una ultime faville, gli ultimi fuochi di un fuoco sempiterno dai confini dell'universo. Ma credo che, per quanto ci riguarda, una cosa ci può far sospettare, secondo me ci fa e ci farà inevitabilmente sospettare anche domani sera, parlando del fatto che molto spesso ci sentiamo, anche solo, come dire, impressionisticamente, ma credo che ci sentiamo anche giustamente delle lampadine, medianamente quasi, lampaduomini che popolano e hanno popolato il pianeta. Ha inventato questa categoria di lampaduomini, certo. Ma di Tesla, in Tesla allora voi trovate, perché dobbiamo ricordare che insieme a te c'è Antonio Agnoli e Massimo Donà, di Tesla. Parlavo di tre poli. Di tre, esatto. In Tesla, in quanto inventore del motore elettrico, che noi adesso abbiamo praticamente ovunque, vedete come il personaggio che ha dato il là, insomma, questa energia diffusa. Tesla è un personaggio chiave proprio perché è un personaggio irrisolto, al di là delle storie, diciamo, delle storie sospese fino alla morte, fino alla casa circondata da elementi dell'esercito, fino a questo ruolo, diciamo, già strategico in un certo senso, percepito come tale dalle stesse istituzioni, e nello stesso tempo invece di eccentricità veramente totale, dove il mistero è quello da dove viene questa questa scintilla che è Tesla. Ricordiamo infatti che per esempio Tesla certamente col motore elettrico ha dato un contributo molto preciso e netto, ma in realtà i suoi sogni elettrici erano ben di più, molto più folli. Lui pensava di riuscire a elettrificare tutta New York senza fili, con grandi fulmini che avrebbero ricoperto la città. E non si tornava alle suggestioni di Archimede, che poi erano quelle di Pitagore, cioè l'idea di mettere insieme la luce e lo specchio, che è un'idea semplicissima e che poi è in piccolo quello che invece è diventato il tentativo titanico, diabolico, ma neanche diabolico, tra il demoniaco invece e la rappresentazione di Zeus o comunque delle saette che gli dèi sembrano mandarci così, senza, o per situazione puramente ludica oppure per farci intristire o impaurire. Enrico Ghezzi, grazie per questo scenario che, come l'hai descritto tu, va bene con il personaggio Tesla. Allora io ricordo che ne parlerete più ampiamente domenica 11 alle ore 18 a Garbagnati Milanese a Corte Valenti. Grazie Ghezzi, buon lavoro. Va bene. Lasciamo Ghezzi e andiamo da Massimo Donà. Buonasera Donà. Buonasera a voi. Lei è l'organizzatore di questo ciclo di incontri filosofia e energia che si svolge nell'Interland milanese in piccole, piccolissime cittadine che però sorprendentemente ha un successo notevole. Mi pare che in alcuni casi avete dovuto addirittura prendere due sale collegate avendo... No, non solo due, tre, quattro sale collegate. Questo è veramente singolare. C'è un bisogno di cultura e di filosofia e di pensiero, evidentemente. E c'è una domanda pronta che bisogna riuscire ad accogliere, alla quale bisogna dare risposta. Esatto. Abbiamo parlato di questo appuntamento che ci sarà domenica con Ghezzi, Gnoli e Donali a Garbagnate, poi però si va avanti fino a giugno? Sì, si va avanti fino a giugno con parecchi incontri che attraversano discipline diverse. Certamente la filosofia è in qualche modo la signora del festival, però noi ospitiamo varie discipline, dalla biologia alla scienza, alla matematica, alla logica, alla letteratura. Però avete fatto sempre una connessione con energia. Esatto, quest'anno è il tema appunto quello dell'energia, un tema importantissimo evidentemente che sin dall'antichità sta al centro dell'attenzione dei grandi pensatori. Che voi trattate, mi pare di capire, per vedendo gli interventi, perché si va appunto da Cacciari a Ghezzi, quindi proprio con personaggi di varia natura, che voi trattate nel senso più lato del termine, cioè in alcuni casi sono proprio le definizioni più strette di energia alle quali voi aderite, quindi per esempio l'energia, il nucleare o l'alternativo. Chiaro. E in altri casi invece prendete il termine, perché credo che sia uno dei termini più usati anche in modo improprio o troppe volte proprio, non saprei come definirlo, no? Perché si parla di energia a volte anche in termini molto distanti da quello che è il significato fisico, ingegneristico. Ci mettete dentro tutto, no? Ci mettiamo dentro di tutto. Io devo dire la verità, partecipo questa settimana a due incontri sull'energia, quindi affronterò la questione stretta, da due prospettive un po' diverse. Una, quella più mia, diciamo così, dove farò una riflessione filosofica a partire da Aristotele, dal concetto di energia, da cui deriva la parola energia, e invece nella seconda, con Ghezzi e Cognoli, appunto, affronteremo la questione nella prospettiva di questo personaggio straordinario e misterioso che era appunto Tesla. Sì, che lui ci ha descritto alla Ghezzi in un modo rutilante e affabulante. Però insomma si prospetta abbastanza interessante. Per avere il piano di tutti questi appuntamenti c'è un sito? C'è un sito sicuramente, anzi due siti. C'è il sito di Albo Versorio, che è la casa editrice e anche l'associazione che organizza questo festival, oppure è stato creato di recente anche un sito proprio La Festa della Filosofia, che è proprio più specifico solo su questo festival, diciamo. E lì si trovano tutti gli appuntamenti. Sì, sì, sì. Grazie Donà, buon lavoro. Grazie a lei. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora proseguiamo con i nostri appuntamenti di storie di scienza, anzi quello di cui parlerai tu adesso si chiama proprio così, storie di scienza. Io vado a Varese e poi io vado a Roma. Buonasera, intanto grazie per essere qua, c'è anche la belva, eccolo qua. Di solito noi iniziamo lo spettacolo riempiendo il teatro di fumo con la macchina del fumo per darvi idea dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici. Poi, vuoi che non ci sembrava bello farvi respirare delle schifezze con tutte quelle che ogni giorno respiriamo in città? Vuoi che stasera sia rotta la macchina del fumo? Abbiamo detto lasciamo stare. Comunque, io mi sono informato su questa bellissima struttura e ci tengo a dirvi che le tavole di questo palcoscenico contengono formaldeide che può dare spiacevoli irritazioni del sistema respiratorio, asma e allergia. Se ridete bene, se non ridete potrò sempre dire ho cercato di farli ridere poco per evitare di fargli inalare sostanze tossiche. Siete comodi su quelle sedie? Abbastanza. Non si può pretendere troppo, sono state assemblate da bambini cinesi di 5 anni che tra l'altro hanno usato delle sostanze cancerogene. Il motivo per cui qui non si fanno spettacoli tutte le sere. Lo spettatore in genere viene una volta o due, poi non torna più. Quindi copritevi bene le gambe. Lo avrete riconosciuto, era la voce di Diego Parasole. Intanto saluto qua il mio collega Maurizio Melis che è venuto a trovarci qui a Mebius. Di solito lo sentite alle 21 su Radio 24 con Smart City, insomma non ha bisogno di presentazioni. È qui perché, ciao Maurizio. Ciao Chiara. È qui perché è fondatore e coordinatore scientifico di un festival di scienza che si tiene in questi giorni per tutto il mese di maggio. È partito il 6 e andrà avanti fino al 29 di maggio. Al 29 di maggio a Varese, e parliamo di storie di scienza che, come storie sai, a Mebius piacciono. Eh beh sì, voglio ben sperare che vi piacciono. Storie di scienza, sì, tra l'altro ci viene facile il collegamento proprio con l'audio che abbiamo sentito, lo spettacolo di Parasole, sì. Che bio ce la mandi buona. Che è un comico dello Zeli, che insomma avete sentito con la battuta molto facile. Con la battuta facile però anche di contenuto, è uno che diciamo dà anche delle informazioni per quanto poi la butti sul ridere. Ed è una buona, così, è una buona metafora del tipo di esercizio che stiamo cercando di fare con questo piccolo festival. Ecco perché storie di scienza, appunto perché da un lato noi vogliamo cercare di raccontare la scienza il più possibile in modo narrativo, ma poi storie di scienza anche perché, che tutti siamo bene o male, chi più chi meno, ma siamo andati tutti a scuola, no? Sì. E lo sai come viene insegnata la scienza? Pensiamo alla fisica, no? Ti sparano lì delle formule quasi fossero delle verità definitive, mentre la scienza è qualcosa di completamente diverso, che è una somma di verità assolute e definitive. Ha un cammino intricato. Oh, benissimo, infatti è proprio la parola che abbiamo usato per spiegare. È un cammino, è un cammino di conoscenza ed è un cammino collettivo. Non c'è solo il genio, che ogni tanto c'è, ma è una rarità assoluta, è un contributo di tante persone. È un cammino dove si incontrano anche parecchi ostacoli. E si prendono dei grandissimi granchi, si sbaglia, quasi sempre si sbaglia in realtà. Poi ogni tanto ci si azzecca e lì salta fuori la scoperta, no? Perché come a livello culturale, come persone, poi, a meno che non siamo degli addetti ai lavori, non è che abbiamo bisogno di sapere le formule, però abbiamo bisogno di quello spirito critico che la scienza insegna forse più che ogni altra. E dunque, insomma, non possiamo snocciolare tutti gli eventi, però qualche assaggino puoi darcelo, insomma, la prossima settimana cosa ad esempio potremmo incontrare? Anzi, ricordiamo magari subito per chi fosse interessato e avesse il computer a disposizione, c'è un sito molto chiaro dove scaricare tutto il programma. www.storiediscienza.it. Semplice. È un sito con varie informazioni e naturalmente ci trovate dentro anche il programma. Argomenti, beh, molti argomenti, diciamo, molte delle conferenze saranno legate al tema dell'energia, che è il tema portante ma non l'unico del festival. A te molto caro. A me molto caro, naturalmente, sì. Però la prima conferenza di cui mi piacerebbe parlare non c'entra molto con l'energia, titolo "I robot non fanno sciopero", avremo Lorenzo Pinna, che è uno storico autore di Quark, uno dei principali collaboratori di Piero Angela, che sta lavorando su un libro nel quale si affronta un tema, credo uno dei più sottovalutati della nostra epoca, cioè quello di come l'automazione, la robotizzazione stia cambiando profondamente la società e in particolare i posti di lavoro che saltano. Che cosa succede se questo trend, che è evidentissimo, va avanti? Per esempio, abbiamo visto tutti al supermercato, ricordiamo un po' di tempo fa, c'erano delle cassiere che battevano a mano, no, i prezzi. Adesso c'è la possibilità di farselo. Poi sono arrivati gli automatismi e le cassiere sono dimezzate, perché quell'operazione ci mettono un terzo del tempo a farle. Adesso siamo noi che, diciamo, ci prendiamo i prezzi da sole. Ma questo è un trend presente in tantissimi settori. È un tema anche molto delicato, sociologico, sì, piuttosto sì. Rilevante, direi. Questo si intitola "I robot non fanno sciopero", già il titolo è molto evocativo. Ed è quando? E questo è martedì prossimo 13. Alle 21 a Varese. Alle 21 a Varese. E poi poi dove ci porti? Ma un'altra cosa che voglio segnalare è un tentativo, un esperimento, diciamo una prima, almeno penso, manuale di sopravvivenza per surriscaldati globali, che andrà in onda il sabato 17, ed è un mix tra conferenze e interventi di tipo teatrale. Avremo due conferenzieri, ci parleranno, diciamo così, sia delle tecniche dell'antichità sia di quelle più recenti per difendersi, io dico, dalla caldazza, nel senso sì, che col cambiamento climatico ci sta arrivando addosso, forse è proprio il caso di parlare di caldazza. Questi interventi però saranno intercalati da degli interventi di una compagnia teatrale, sono i plateali, che sono specializzati in improvvisazione teatrale, quindi coinvolgono il pubblico. È un tentativo, vedremo che cosa succede, che non ne abbiamo idea, non è uno spettacolo codificato. L'avete costruita anche in base appunto a format diversi per cercare di sperimentare un po' col pubblico dei nuovi format, per raccontare in qualche modo in maniera originale la scienza, quello che cerchiamo di fare anche noi. E poi, scusa, posso citare uno dei miei argomenti preferiti, energia in cucina, invece, con il nostro amico Dario Bressanini, che sarà domenica 25 alle ore 18. Di che cosa ci parla? Beh, direi che il titolo anche lì la dice un po', la dice lunga. Energia in cucina, perché non parleremo diciamo del gas, del consumo di gas ai fornelli, ma parliamo del fatto che la cucina è fisica e per esempio le cotture sono uno degli aspetti più difficili, e lì l'energia è evidente che c'entra, no? Quando scaldiamo qualcosa gli forniamo più o meno caldo, la durata, ci sono tutta una serie di aspetti molto tecnici, molto scientifici. Non è possibile dilungarci oltre, nel senso che gli eventi sono veramente tanti. Rimandiamo tutti al sito storiedescienza.it, lo metteremo anche nella nostra pagina moebiusonline.eu. C'è una piccola cosa di cui vado orgoglioso, che vorrei dire, che nessuno paga niente, tranne la maratona cinematografica finale, lì c'è un film da andare a vedere al cinema e naturalmente lì si paga. Ma non solo, nessuno di quelli che ha lavorato a questo progetto prende un euro, è una cosa fatta da un'associazione di volontariato. Non so se ci siano altri festival della scienza in Italia organizzati con questo criterio. Bravi, complimenti, in bocca al lupo senz'altro per la riuscita del festival, e grazie, e no, ci grazie vediamo a Varese, voi. Insomma. Grazie a te, Chiara. Adesso, per quanto brevemente, parleremo di un momento storico nella storia dell'umanità. E lo faccio questa sera con Valeria Patera. Buonasera, Patera. Buonasera, Pedrocchi. Autrice, regista di teatro con una particolare attenzione ai contenuti di tipo scientifico. Allora, senta, no, non diciamo niente adesso. Ascoltiamo un breve estratto da qualcosa che poi ci spiegherà, ed è una pièce teatrale. Però ascoltiamo queste due voci. Un futuro in cui, attraverso il calcolo, nuove applicazioni del calcolo, sarà possibile realizzare tecnologie oggi impensabili. È possibile. Ed è evidente che tante cose che parevano impensabili si stanno già realizzando nel nostro tempo. Ieri tornavo comodamente in treno dalla conferenza di Darwin a Oxford. Un viaggio di poche ore in poltrona, fumando la mia pipa e leggendo il giornale. E quando sono sceso alla stazione, ho potuto recarmi all'ufficio del telegrafo e telegrafare a mio figlio una cosa importante. Sì, sì, sta accadendo proprio questo. E poi l'industria sta cambiando il volto alle nostre città. E ci sono vantaggi e svantaggi, ma vince lo sviluppo della conoscenza. Attraverso un telaio più intelligente possiamo arrivare così lontano. Il suo sistema a schede perforate, opportunamente adattato alla macchina analitica, ha una straordinaria potenzialità. Le schede danno istruzioni alla macchina, permettendole di utilizzare i risultati dei primi cicli di calcoli e poi procedere con altri ancora. Ho pensato tutta la notte a questo e ho portato i disegni revisionati con le modifiche che intendo apportare alle schede e al meccanismo di cinte che usa Jacquard, ma è chiaro che questo sistema assicura una rivoluzione meccanica. È chiaro. Come il telaio di Jacquard tesse fiori e foglie, la macchina analitica tesse disegni algebrici. Questa è scienza poetica, analisi metafisica. Allora, Valeria Patera, era un estratto da una pièce teatrale che parte a Roma, insomma, nella prossima settimana, dopo ne parliamo. Qui, con queste voci, in che momento siamo dell'Ottocento? Verso la metà? Sì, sì, esattamente. Quella scena ha veramente una collocazione storica precisa, del 1842, ed erano 2 anni dopo il viaggio di Charles Babbage, quando venne in Italia, invitato dal di allora re d'Italia, no, non era ancora re d'Italia, ma di Piemonte e di Sardegna, e comunque fu invitato appunto a questa riunione di sapienti in cui poté presentare il progetto strepitoso della macchina analitica, di cui poi appunto con Ada Byron lui aveva anche successivamente lavora, e successivamente a questa visita e a questa presentazione Ada Byron, di cui poi vi dirò, debutta nella scienza internazionale scrivendo delle note che sono tuttora molto importanti appunto a questo pamphlet che il conte Menabrea, un matematico sabaudo, scrisse ad elogio, ad ammirazione di questo progetto di macchina analitica. Ecco, lei ci ha già detto che le due voci sono quelle di Ada Byron e di Charles Babbage. Babbage, insomma, certo, è un personaggio storico, a lui dobbiamo praticamente la prima macchina che fa di conto, e poi c'è Ada Byron, di cui appunto ci dica qualcosa, perché è al centro della sua pièce teatrale. Sì, Ada Byron era la figlia del famoso poeta romantico Lord Byron, che sin dalla più tenera età, siccome aveva avuto un'educazione con uno stampo fortemente scientifico, ha rivelato capacità geniali nella matematica, ma che poi riesce a portare avanti anche una visione della matematica, diciamo, piuttosto avanti, piuttosto, diciamo, oltre quella che era una visione canonica. All'età di 17 anni incontra appunto Charles Babbage, che invece ne aveva già oltre 40 ed era già un affermato matematico, e appunto Charles Babbage rimane assolutamente estasiato dalla intelligenza, dall'acume e dalla genialità di questa giovane donna che intuisce la grandezza del progetto di Babbage. Lui infatti rimane stupefatto che lei possa capire, poiché questo progetto appunto partiva da qualche cosa che avevano già ottenuto, cioè l'automatizzazione del calcolo, ma che nel momento in cui loro capiscono che possono applicare il metodo a schede perforate che Monsieur de Jacquard aveva messo a punto per la meccanizzazione dei telai, che possono applicare quello, ecco che lì intuiscono quello che poi diventerà il software. Cioè, straordinariamente, questo accade in assoluto per la prima volta nella storia, e in quel momento praticamente si fonda l'informatica, perché loro capiscono la distinzione tra un meccanismo fisso di base della macchina e un meccanismo che si può cambiare, mutevole, certo, che è quello fatto con le schede perforate, che non dimentichiamo, le schede perforate saranno utilizzate fino quasi agli anni 70. Alla metà degli anni 70 i grandi calcolatori IBM andavano ancora con le schede perforate. Il software è quello strumento che ci permette appunto di dialogare con la macchina. Valeria Patera, però, tutto questo è uno spettacolo. Allora, titolo dello spettacolo: La fatta matematica. La fatta Byron Lovelace. Che è lei, la fatta matematica. Le date esatte, Patera? Le date esatte sono 13, 14 e 15 maggio, sì, alle ore 21 tutte le sere, e il giorno 14 c'è anche una pomeridiana alle ore 17. Grazie, e chi fa spettacolo non gli si può dire auguri, no? In bocca al lupo. No, e quello che si dice non si può dire. Non si può dire in radio. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Adesso avremo ospite Alessandro Dallago, sociologo, Università di Genova, studioso di comportamenti sociali devianti. Con lui abbiamo voluto parlare della finale di Coppa Italia, degli incidenti gravi che ci sono stati, per capire se la ricerca scientifica, quella che si interessa appunto di comportamenti delle masse, riesce a rispondere appunto a questa domanda, cioè se ha senso domandarsi se si deve o meno trattare. Alessandro Dallago l'ho raggiunto via Skype mentre aspettavo un aereo in un aeroporto. Alessandro Dallago, vorrei, per introdurla, raccontare una mia personalissima esperienza, ma che possono fare molti altri, guardando un video, un filmato di quello che avvenne nella famosa finale di Coppa dei Campioni all'Aisel. Io ben presento una sequenza di questo filmato nel quale si vede drammaticamente una quantità di gente, saranno 600-700, ammassati completamente a sinistra, dove finisce la tribuna e ci sono delle ringhiere contro le quali, ed è lì che avviene la tragedia, ci sono corpi schiacciati, ammassati, molti di questi moriranno, molti anche avranno gravi traumi permanenti. Ma quando la videocamera si sposta, noi scopriamo che a 30-40 metri questa massa di persone finisce, c'è il vuoto. Questa tribuna potrebbe essere tranquillamente liberata se semplicemente andassero indietro, invece questo non avviene. Questa cosa mi ha sempre fatto capire, poi in anni successivi l'ho visto anche in ricerche, che voi che vi interessate di sociologia dei comportamenti, hanno dimostrato queste ricerche che quell'organismo che si forma nel momento in cui ci sono questi comportamenti di massa non ha niente a che vedere con quel minimo di intelligenza che può avere un individuo da solo. Allora ecco la domanda: con le vicende romane della finale di Coppa Italia c'è stata una... Ormai noi viviamo in una situazione in cui politicamente bisogna subito dire qualcosa nell'arco di 30 secondi, ma noi non entriamo, per carità, questa è una trasmissione di scienza in questo tipo di questioni, però mi pare di capire che voi che studiate questo tipo di cose sappiate da tempo che non esiste il problema trattare o no, nel senso che in quei casi o si riesce comunque a calmare le acque o se no, se questo ragazzo molto stupido che si vede appunto in questo filmato romano fosse stato arrestato subito lì, come dicevano, beh, avrebbero potuto succedere il finimondo. Sbaglio o no? No, assolutamente. Allora, comincio con la storia dell'EISL, ormai è stata studiata in tanti modi. Quello che sembra chiaro è che la responsabilità va divisa tra i tifosi della squadra inglese che caricarono ottusamente, come lei diceva, più che altro perché questo faceva parte all'epoca, quindi sto parlando di 30 anni fa, della cultura del calcio inglese, e le autorità belghe che non capirono assolutamente che mettere in contatto dei tifosi organizzati inglesi con la loro cultura violenta, all'epoca violenta, e i tifosi italiani che appartenevano a un'altra cultura all'epoca, cioè quella del pubblico comune, non poteva che causare un disastro. Non parliamo delle ringhiere, insomma, tutte queste cose qua. Quindi la responsabilità va divisa, voglio dire, comunque deve comprendere anche queste autorità, sia cittadine che calcistiche, totalmente idiote in quell'occasione. Per quanto riguarda la sua domanda, la questione è sì, cioè negli stadi e anche fuori, voglio dire, nelle manifestazioni politiche, dovunque, le autorità di polizia discutono, si mettono d'accordo, trattano evidentemente con l'altra parte per evitare semplicemente guai peggiori, cioè in un certo senso quello che è successo a Roma mette in evidenza la differenza tra il comportamento esterno di alcuni gruppuscoli, in particolare di romani che avevano fatto un agguato ai napoletani, e anche di questo disgraziato che si è messo a sparare, no? Che è uno, chiaramente era uno che fuori di zucca, e il comportamento interno invece, che è standardizzato, cioè il gruppo dei tifosi napoletani all'interno dello stadio si è comportato come si comportano sempre da almeno 35 anni i tifosi delle grandi squadre. Quindi era inevitabile che ci fossero un contatto, quindi tirar fuori lo scandalo per la trattativa in questi casi vuol dire semplicemente essersi dimenticato di quello che è successo fino all'altro ieri in qualunque stadio. Quindi assolutamente sì, se quel ragazzo napoletano fosse stato arrestato probabilmente sarebbero successe delle cose inverosimili. Non si tratta, appunto, anche perché siamo, come dicevo prima, in una trasmissione che non si interessa di termini di problemi politici direttamente, ma non si tratta di andare a vedere poi una serie di errori che senz'altro sono stati fatti, non si controllano bene, mi sembra evidente, forse lì c'è anche, almeno anche i colleghi che si interessano di sport qui a Radio 24 non hanno problemi a dire che insomma lì c'è anche un mancato controllo non troppo casuale, però di fronte a una situazione esplosiva come quella, sono frasi, come dire, dettate da una superficialità micidiale che però viene macinata, diciamo, dal dibattito politico un po' troppo alterato, queste cose che appunto dicono non bisognava trattare, bisognava per esempio sospendere assolutamente la partita, era una partita non da giocare, È vero, questo proprio per quello che noi sappiamo dei comportamenti delle grandi masse è sbagliato. Ci sono stati anche questi, quell'esempio drammatico successo qualche anno fa in Germania, dove improvvisamente un corteo enorme si infila in un pertugio di un sottopasso e sembra completamente incapace questo animalone di capire che da quella parte non si passa. Io seguo questi fenomeni da una quarantina d'anni, insomma, anno più o anno meno. In tutte le manifestazioni, in tutti i comportamenti di massa di strada, siano scontri accanto a uno stadio oppure manifestazioni politiche, c'è sempre una regola, quelli che uno psicologo sociale inglese chiamava le regole del disordine, no? Cioè anche il disordine apparente ha delle regole di gestione evidente. Una di queste regole è lasciare sempre una via di fuga ai manifestanti per evitare guai peggiori, cioè da sempre, cioè quando la via di fuga non c'è vuol dire che c'è una decisione politica nel senso della politica della piazza che invece va in altri termini, come in altre direzioni, come è successo al G8 di Genova, ma tendenzialmente una via di fuga va sempre lasciata. Ora, via di fuga non soltanto in senso tecnico, diciamo toponomastico, cioè lasciare una via, ma in generale, come dire, il comportamento della polizia, una polizia che si comporta saggiamente tende a gestire questi fenomeni. Allora, lei diceva un serpentone privo di testa. Il problema è che quello che a noi sembra apparentemente comportamento collettivo, e quindi noi tendiamo a dare unità, eccetera, che cos'è? Fondamentalmente la somma di personaggi, di individui che si trovano in una situazione particolarissima, cioè di carenza percettiva. Se avessimo tempo si potrebbe studiare questo fenomeno, è quello che io chiamo il fenomeno della battaglia di Cannae, no? Quando Annibale circondò un esercito romano superiore, benché i cartaginesi fossero meno, imbottigliarono i romani in uno spazio limitatissimo e li fecero a pezzi. Cioè, queste nozioni di tattica minima fanno parte del sapere, dovrebbero far parte del sapere di gestione, diciamo, dell'ordine pubblico, in cui rientra anche evidentemente sapere parlare e sapere calmare gli animi. Quindi il problema, adesso io non voglio stare ovviamente in questioni politiche, però trattare in modo emozionale per fini, diciamo, politici queste materie secondo me è pericolosissimo. Le faccio un'ultima domanda invece, sì, tipicamente di tipo sociologico e prospettico. In Inghilterra lei ricordava giustamente che le cose sono cambiate, ecco, effettivamente c'era una tifoseria particolarmente aggressiva e problematica, adesso ci sono le nonne agli stadi con i nipotini. La situazione italiana, secondo lei, potrebbe evolvere in questa direzione oppure abbiamo delle nostre inguaiate specificità per cui la vede dura? Facciamo una premessa. Allora, quando circa 30 anni, 28-29 anni fa, furono prese delle misure che effettivamente portarono alla fine della cultura hooligan in Inghilterra, bisogna anche tener conto però che i morti erano stati decine, se non centinaia, a parte l'Eisel, il caso dell'incendio di Sheffield, eccetera, per non parlare della violenza continua, cioè c'erano dei gruppi, per esempio, non so, i tifosi del Leeds, che erano specializzati si chiamava Intercity Firm, cioè la ditta di varie città, che si muovevano e accoltellavano gli altri. Cioè, quindi, voglio dire, adesso Dio mi perdoni, non vorrei essere frainteso, dico, ma quello che succedeva in Inghilterra, successo in Inghilterra nel secondo dopoguerra fino all'85, era di gran lunga era peggiore di quello che è mai successo in Italia. Il problema dell'Italia fondamentalmente è che un po' ci sono dei rapporti, come ci sono sempre stati, dei rapporti oscuri tra società e curve. Le curve si sono in qualche misura delinquentizzate, cioè, diciamo, specialisti. Con questo io non credo affatto, come ha detto qualcuno, che sia la camorra che governa queste cose. Queste sono semplificazioni un po', secondo me, che lasciano il tempo che trovano, insomma. Non basta che uno sia napoletano e abbia il padre, forse, come dire, perché sia considerato camorrista. La verità è che in Italia il calcio perde pubblico per una serie di motivi che si potrebbero discutere una volta tanto è che non c'è la volontà politica di fare alcune operazioni banali, per esempio. Dunque, io sono per la libertà di espressione, conosco, ho frequentato in altre epoche il mondo ultra, eccetera, e questo ha anche delle caratteristiche che sono estremamente interessanti e da un certo punto di vista suggestive, lo erano almeno. Detto questo, io striscioni razzisti o striscioni che offendono la memoria dell'altra squadra, qui non li farei entrare in uno stadio, stiamo parlando di striscioni lunghi 30 metri, larghi e alti 2, quindi non sono cose che messo sotto la giacca, e c'è lì c'è una responsabilità delle società, dei gestori degli stadi, e in qualche misura anche, secondo me, anche dei gestori dell'ordine pubblico, che dovrebbe essere portati alla luce. Queste cose non possono entrare, non si può entrare con decine di razzi in uno stadio. Vabbè, insomma, in conclusione il nostro problema è che addirittura rispetto a quel periodo inglese che le ha ricordato siamo in una situazione migliore, però invece quello che viene fuori è il nostro disordine di governance, ecco, questo è il problema. Alessandro Dal Lago, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ostreopsis, ti piace questo nome? Mi piace moltissimo. È bellissimo, sì. Purtroppo è un bel problemaccio. Non a tutti piace, ecco. A loro, alle Ostreopsis, probabilmente si piace molto, ma per noi è un problema, anche se ha un bel colore. Allora, stiamo parlando di alghe, sì. Di alghe, e lo vogliamo fare questa sera con due nostre ospiti che sono Valentina Asnaghi, buonasera Asnaghi. Buonasera. E Maria Chiara Chiantore, buonasera. Buonasera Maria Chiara, siete entrambe ricercatrici in ecologia presso l'Università di Genova. Allora io incomincio con Maria Chiara Chiantore. Siamo qui a parlare perché c'è un progetto europeo per riuscire a gestire questa benedetta Ostreopsis. Siamo in presenza di alghe, ma non quelle che... Esatto, non quelle che conosciamo tutti, che... diciamo, non quelle che stanno di solito, diciamo, sugli scogli, che stanno a calpestare quando andiamo in mare. Il verdurone, ecco. Il verdurone, sì, l'insalata. Ma parliamo di microalghe, quindi organismi unicellulari, organismi quindi diciamo invisibili, sono nell'ordine diciamo di taglia intorno al 20° di millimetro per intendersi, quindi le vediamo solo al microscopio. A meno che queste non diventino eccezionalmente abbondanti, nel qual caso formano quelle che si chiamano fioriture o bloom e possono causare per esempio delle maree colorate, le cosiddette maree rosse per esempio, oppure possono formare delle mucillagini che si attaccano sul fondale marino, possono flocculare sulla superficie del mare. E coprono mica male, no? Di un bel verde spesso. Un bel verde marroncino, diciamo. Sì, proprio la cosiddetta mucillagine, no? Mucillagine, sì, diciamo che non tutte le alghe che producono mucillagini sono realmente pericolose, nel senso che ci sono delle diciamo delle mucillagini che possono avere un effetto negativo sugli organismi marini, in quanto banalmente li soffocano, nel senso che consumano ossigeno. Ma ce ne sono alcune, come appunto la nostra Ostreopsis, che producono invece delle sostanze tossiche, quindi di vario genere. Diciamo non si potrebbe entrare in acqua. Sono anche non un po' orticanti. Si potrebbe entrare in acqua se si superano certe soglie, perché Ostreopsis produce sicuramente una serie di sostanze tossiche di vario genere, tra cui in piccola quantità una palitossina, ma anche tutta una serie di ovatossine, giusto appunto, a causa del suo nome, perché la specie che da noi troviamo è Ostreopsis ovata. E queste tossine senz'altro agiscono anche attraverso la catena alimentare, ma diciamo sull'uomo fino ad ora, a parte forse un caso, gli unici diciamo tipi di interazioni negative sono legate a un contatto diretto, quindi balneando o attraverso inalazione per esempio dell'aerosol marino. Sì, danno un po' di problemi dermatici. Mal di gola, anche questo. Certo, cioè, non un bagno piacevole. Diciamo che devono appunto superare concentrazioni nell'ordine delle centinaia di migliaia per litro. Sì, certo. È qualcosa che non avviene che non avviene dovunque. Senta Maria Chiara, velocemente, nel Mediterraneo ci sono un po' ovunque, possono arrivare da qualunque parte? Ci sono abbastanza dovunque, e a parte alcune regioni nelle quali ancora non è stato trovato, ma probabilmente perché non è stata cercata, perché altrimenti non ci sarebbe motivo. Da quanto tempo sia il Mediterraneo? Francamente non è noto saperlo, perché è una specie che ha diffusione un po' globale, e il Mediterraneo è stata trovata a partire dalla fine degli anni 90, ma è dal 2005 che sta cominciando a causare effettivamente delle fioriture intense con piccoli per ora problemi per la salute umana. E senta Asnag, invece c'è un progetto europeo, voi ci state lavorando, state pensando a quali possono essere i sistemi, ovviamente non credo per eliminarle perché sarebbe forse impossibile, ma non so, per arginare la fioritura o cosa si può fare? Allora, in realtà il progetto europeo è proprio mirato a fare una modellizzazione di questi bloom nell'ottica di mitigare il rischio. Quindi in realtà, come diceva giustamente, non è possibile bloccare il bloom, ma si possono studiare quali sono tutte le condizioni meteomarine che lo influenzano. Che sono quindi, che cosa? Il forte caldo, le forti correnti calde? Il rischio è la temperatura. E chiaramente poi anche altri fattori quali il moto ondoso, la pressione barometrica. Okay. E quindi proprio l'idea è quella di studiare quali sono le variabili che più influenzano questi eventi di bloom e modellizzarli in modo da creare un modello predittivo che ci permetta di sapere in anticipo se avremo un problema di questo genere. Questo è un po' l'obiettivo, cioè eliminarle non è possibile, però magari prevenire e capire quando ci sarà la fioritura per poter in qualche modo allertare, avvisare i bagnanti, ecco. Esattamente. Ecco, arriviamo a questo punto che è un punto delicato, perché il progetto non ha solo una parte di ricerca scientifica per capire quali sono i sintomi iniziali di un innesco della fioritura, perché appunto si fa questo per poter interagire al meglio con le popolazioni. Ecco Maria Chiara, qui ci sono già state esperienze, se non sbaglio nel 2005 in Liguria, però il vostro problema è che insomma, qui siamo fatti così tutti. Improvvisamente siamo al mare in vacanza, arrivano le alghe, tragedia, dovevate dircelo, come mai, l'inquinamento, sono le fabbriche, no? Esplode questa cosa qui. Voi lì state cercando di capire come fare. Qui assolutamente sì, diciamo che peraltro essendo stata la Liguria effettivamente la prima regione realmente impattata da queste fioriture tossiche, la nostra ARPA, quindi la nostra Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, si è attivata immediatamente e dall'epoca sta monitorando e si è fatta veramente diciamo promotore a livello di tutto italiano di diciamo mettere a punto dei protocolli grosso modo comuni per tutte le regioni italiane, tra l'altro col patrocinio, sono in collaborazione con ISPRA, col Ministero della Salute, dell'Ambiente. E quindi si sta già lavorando in questo senso. In particolare con ARPA stiamo già collaborando già da tempo e si è già iniziato questo discorso, diciamo, di cercare di produrre una sorta di bollettino previsionale delle fioriture di Ostreopsis, ovviamente limitatamente alla Liguria, ma ancora, diciamo, basato su diciamo le valutazioni diciamo chiometrica, ecco, non ancora una base matematica, che invece è quello che vorremmo cercare di produrre appunto nell'ambito del progetto. Cioè adesso diciamo si basa sul fatto che vedete magari che c'è una piccola macchia e piano piano si possa espandere. Diciamo che sulla base di che conduciamo in alcuni posti, o conducono soprattutto i colleghi di ARPA in alcuni posti, quando si vede che le concentrazioni superano un certo valore e che le condizioni meteomarine sono tali da, diciamo secondo la nostra esperienza, tali da favorire un'ulteriore crescita di queste di queste microalghe, chiaramente diciamo si fa scattare diciamo un segnale di allerta sul sito web di ARPA. Però con un certo anticipo che sarebbe importante per gestire al meglio i vari riflessi. Sì, anche il rapporto col turista, insomma. Certo. Certamente, ma anche diciamo cercare di capire bene quali sono anche le aree a rischio, perché non tutto il tratto di costa è ugualmente a rischio, perché appunto queste microalghe poi preferiscono delle condizioni particolarmente riparate, la presenza di macroalghe su cui stare attaccate, per cui voglio dire possiamo avere magari una baia che può essere impattata, ma diciamo le spiagge adiacenti assolutamente non essere diciamo esposte. Non essere influenza. Sentite, la mia collega Chiara è un'esperta e cultrice di cose che riguardano scienza e cibo. Non è che queste Ostreopsis si può fare un brodino. Raccogliere, insomma, le Ostreopsis alla Livornese, non c'è uno scenario alimentare per cui converrebbe raccoglierle tutte, no, sono cattivissime. Un sushi. Diciamo che è impensabile. possibile raccoglierle tutte. No, però una certa attività industriale, non so, con delle benne acquatiche che le tirassero su un po'. No, perché stiamo parlando di organismi piccolissimi e che proliferano con una velocità tra l'altro impressionante, perché effettivamente anche queste fioriture, per cui voglio dire, o rimuoviamo completamente tutte le macroalghe dalla costa per evitare, ma mi sembra poco ecologico, diciamo. E sistemi per arginarle, ad esempio mettere dei ciambelloni che possano arginarle, è impossibile, sono talmente tanti. Sarebbe peggio, perché non è che vengano dal largo verso costa, diciamo come le meduse, no? Le meduse si mettono per esempio delle reti. C'è la mareggiata. No, loro proprio stanno lì. No, poverine, partono proprio dallo scoglio su cui mettiamo i piedi. Però finiscono anche rapidamente, cioè lì c'è un processo di tipo evoluzionistico darwiniano, cos'è? Cioè crescono, sono troppe e incominciano a finire, è così che va, anche in poco, no? Sì, assolutamente sì, cioè diciamo che appunto proliferano sulle macroalghe, andando a creare appunto questa mucillagine di cui parlavate prima, di questo colore marroncino più che verde, e poi quando sono effettivamente troppe cominciano a entrare in sospensione nell'acqua, e poi da qui vengono facilmente disperse, poi chiaramente il mare è una struttura in continuo movimento, per cui basta una mareggiata, queste microalghe vengono disperse al largo e diciamo le densità improvvisamente crollano. Va bene, grazie Maria Chiara Cantore, buona ricerca Valentina Snaghi, e poi grazie. Ci direte man mano cosa combina. Purtroppo lo Streopsis e la Livornese non è uno scenario praticabile. No. Sì, perché quelle giapponesi che fanno bene, che bisognerebbe mangiare, quelle del sushi, insomma, sono scure. Sono le verdurazze, tipo verdurazza. Sì. O verdi o nere, comunque sono quelle lì. Belle consistenti. Vabbè, io non ho più niente, tu hai qualcos'altro da dire? Ne ho, ma le teniamo per settimana prossima. Quindi buona settimana a tutti. E a tutte.